Siamo qui per presentare un libro uscito da un anno e mezzo, un libro che riteniamo importante. Si tratta de La vita e lotta, scritto da Ludovico Testa, caratterizzato da un'intervista, un insieme di interventi sulla biografia di Aroldo Toronelli. Un libro che ritengo molto importante perché è una ricostruzione puntuale, minuziosa, di questa esperienza di vita. Ludovico Testa ha scritto questa biografia in seguito ad una lunga intervista. Credo che questo libro, più che una biografia o un'autobiografia per interposta persona, per interposto autore, sia in verità un dialogo tra due generazioni diverse, un giovane e un anziano. Ludovico Testa ha 40 anni, Toronelli ne ha molti, molti di più, siamo sulla soglia dei 90, hanno culture diverse. Toronelli ha una militanza comunista di tutta una vita, l'autore invece si avvicina alla politica dopo la fine del Partito Comunista, dopo la caduta del muro di Berlino, dopo che una pagina della storia è stata voltata. E poi c'è il dialogo tra un protagonista e uno storico di professione. È un dialogo che questo libro restituisce con una grandissima onestà. Credo che se il libro avesse soltanto questo valore sarebbe già un grande libro, perché restituisce con somma limpidezza questo scambio ricercato, voluto, ma difficile tra questi due mondi diversi. Non è una marcia trionfale a raccontare una storia, per quanto luminosa, bella, importante, gloriosa, ma è una ricerca continua di un dialogo difficile che deve essere costruito. E credo che questo, che traspare continuamente dalla lettura di questo libro, se lo si vuole leggere in questa chiave, sia uno dei valori di questo libro. Troppo spesso leggiamo delle storie del Novecento basate su interviste in cui l'autore diventa l'apologeta dell'intervistato. Non ha senso, non serve a nulla, non serve a nessuno. Oppure l'intervistato diventa il pretesto per veicolare le convinzioni ideologiche dell'autore. Anche questo non serve a nulla. Invece qui c'è la ricostruzione puntuale delle tensioni rispettive nel racconto e poi da parte dell'autore una puntuale contestualizzazione storica dei fatti sui quali si sofferma la narrazione. Questo è il primo punto. Il secondo punto, ma non è il minore, è il maggiore, sono gli aspetti della biografia di Aroldo Toronelli. Io credo che in questa biografia ci siano due assi fondamentali. Uno è quello dell'antifascismo e della resistenza. Toronelli nasce alla politica nell'antifascismo, nell'epoca dell'antifascismo più difficile e oscuro. Toronelli si educa all'antifascismo negli anni in cui il fascismo conosce il massimo successo, il massimo di consenso e il massimo di forza politica e istituzionale in Italia. E poi è protagonista della resistenza da grande comandante. Formalmente è il vice comandante delle SAP di Bologna. In realtà, poiché l'incarico di comandante era un incarico politico formale, è Toronelli il vero artefice della straordinaria esperienza dei SAP nella Bassa Padana, sui quali spenderò una parola dopo perché è molto importante. E quindi un'esperienza che va dall'antifascismo alla resistenza, condotta nei termini della massima responsabilità, non soltanto dal punto di vista dell'affidamento di responsabilità da parte dell'organizzazione clandestina resistenziale, ma anche dal punto di vista dell'assunzione di responsabilità e della capacità creativa, della capacità di costruire progetto politico. Il secondo asse su cui si muove il libro è quello che oggi dobbiamo chiamare con dei termini passati di moda, ma sono passati di moda solo i termini, non la sostanza delle questioni. È l'asse della grande lotta per la giustizia sociale, è l'asse delle lotte sociali, è l'asse delle lotte per l'emancipazione delle classi subalterne. È una vocazione che accompagna Tolomelli praticamente dalla sua nascita per tutta la sua vita e ancora oggi, perché Tolomelli che abbiamo qui con noi non è un pensionato che se ne sta in casa sua, è una persona che appena lo chiamano risponde e testimonia del suo percorso politico, ma anche della sua volontà di essere presente oggi nel dibattito politico. Per questo non è un incontro normale quello con Tolomelli, non è l'incontro con un anziano che ci racconta del passato, è l'incontro con una persona che pensa alla realtà, la vive e naturalmente avendo un grande passato lo usa per leggere il presente, ma è il presente che gli sta a cuore e questo cambia la prospettiva completamente. Non ci sono degli antichi fasti da rievocare, c'è una vita reale, pulsante, quotidiana. Ecco, e questa è una storia lunga, profonda. Infatti il libro parte non dalla nascita di Tolomelli, ma parte dai genitori, dai nonni di Tolomelli. Parte da una vocazione alla lotta sociale che è nelle profonde radici della sua famiglia e nelle profonde radici della sua terra. Una terra divisa da profonde ingiustizie, ma che ha avuto una caratteristica, la nostra Bassa Padana. Quella che queste ingiustizie c'erano come altrove, ma qui c'era forte una volontà di lotta contro queste ingiustizie. Una volontà di battersi, una volontà di non accettare passivamente, che a volte si veste di una maggiore consapevolezza politica, a volte invece ha un carattere più spontaneo, oppure più etico e meno politico, ma che a un certo punto diventa la grande cultura politica antifascista, insieme a tante altre componenti. Ecco dunque che Tolomelli, attraverso la sua esperienza di vita e di lavoro, attraverso la sua vicenda familiare e attraverso le sue vicende personali di lavoro, entra nel campo dell'antifascismo e entra nel campo del comunismo, si iscrive al Partito Comunista. Un partito comunista che allora era un partito che viveva nella clandestinità più assoluta e che si dava, come dice il suo maestro di allora, Masina, si dava dei compiti molto elementari. Il mandato di Masina è molta organizzazione e poca politica, molta ideologia, molta organizzazione, poca politica. E l'importante è esserci e tenere in piedi questo asse. E tuttavia l'esperienza di Tolomelli passa attraverso la necessità di confrontarsi con altri mondi. E cioè quando esce dal suo mondo di questa realtà locale fortemente classista e quindi nel quale il confronto poi era sempre tra simili, si trova in mondi diversi, per esempio il servizio militare, e si trova a discutere con persone che vengono da classi sociali diverse, ufficiali, borghesia alta, altre regioni d'Italia e che hanno altre idee, magari sono antifascisti anche loro, ma che sono di formazione liberale, crociana, è un altro mondo. E qui il nostro protagonista comincia a costruirsi un antifascismo colto. È necessario confrontarsi con tutte le anime di questo paese e cercare di dialogare con tutti e di essere consapevoli di tutte queste anime. Insomma, sembra quasi che la parabola di Tolomelli sia un po' la parabola di questo comunismo italiano che tiene conto più di altre esperienze comuniste in Europa negli anni 30 della complessità della realtà sociale. Deve e vuole considerarne tutti gli aspetti. L'esperienza della resistenza, dicevo, merita una connotazione particolare, perché vedete, la resistenza non è lotta armata soltanto, la resistenza non è soltanto organizzazione clandestina e capacità di combattere il nemico, la resistenza è stata ben altro. E questo lo dimostrano tante forme di resistenza diverse, questa mostra lo testimonia con somma chiarezza per quel che riguarda la capacità di organizzare resistenza in una realtà al di là di ogni speranza, quella di un lager, peggio ancora, di un lager di transito, in cui anche la temporaneità della permanenza rendeva difficile e labile ogni forma estremamente clandestina di auto-organizzazione. Ma la resistenza è stata anche altro, è stata anche la capacità di costruire l'antifascismo a partire dalla realtà sociale. Vedete, un grande errore che si fa è quello di pensare che la resistenza si possa spiegare attraverso due sole variabili: la consapevolezza della inaccettabilità del nemico, l'occupazione tedesca, la violenza dell'ideologia fascista da una parte, e dall'altra parte la capacità e la volontà di organizzarsi autonomamente per la lotta armata. Ecco, se pensiamo che la resistenza sia solo queste due cose, non capiamo niente. Questo libro è uno dei libri che meglio spiega questo concetto, e cioè c'è altro. La lotta armata ha senso se, primo, è diffusa e consapevole la percezione che il fascismo rappresenta l'aspetto peggiore di dominazione sociale; secondo, se è proprio attraverso questa società oppressa che nasce e si costruisce la possibilità di resistere in tante forme, tra cui anche quella armata, ma non solo quella armata, che da sola sarebbe assolutamente non solo insufficiente, ma sconfitta. Sotto questo punto di vista, l'esperienza di Toronelli è straordinaria. Perché? Perché noi abbiamo a Bologna un segretario del Partito Comunista, ovviamente allora clandestino, Alberganti, nome di battaglia Cristallo, che ritiene impossibile la resistenza a Bologna. Lui dice: guardate il Piemonte, in Piemonte ci sono grandi valli di montagna con i boschi, e lì ci si nasconde, lì si può fare la resistenza. In Emilia come si fa a fare la resistenza? Le nostre colline non hanno sempre verdi, con l'autunno sono brulle, un uomo si vede da lontano, sono troppo attraversate da strade, strade fondamentali per i tedeschi perché collegano il nord con il sud, e poi perché ci sono i piccoli contadini di montagna che sono tipicamente piccolo borghesi, tipicamente conquistati al fascismo o conquistabili da parte del fascismo. Quindi la resistenza non si può fare a Bologna. Alla pianura Alberganti non ci pensa nemmeno, è piatta, è impossibile nascondersi. Bene, la resistenza bolognese quindi nasce come piccoli gruppi di specialisti, i GAP, in città, ma si trascura il resto. E invece ci sono uomini come Toronelli, anzi soprattutto Toronelli, che spiegano che se la resistenza non è in stretto rapporto con la gente, se non nasce da un rapporto di massa, come si diceva allora con un termine tipico della politica di quegli anni, non ha senso, quindi di lì deve nascere. E dunque a Bologna non c'è un paesaggio nel quale nascondersi? Sì che c'è, è il paesaggio umano, sono i mezzadri, sfruttati da un secolo da un mercato capitalistico. Certo, da noi non c'è la grande industria, ma il mercato è capitalistico anche se non c'è la grande industria capitalistica. E i mezzadri, che hanno dovuto cambiare progressivamente la loro azienda agricola per produrre tanto più grano che per il proprietario terriero capitalista è moneta sonante sui mercati italiani, vivono questo sfruttamento da tanto tempo e lo vivono in termini di conflittualità, di lotta. Bene, sono i mezzadri la forza della resistenza, sono i lavoratori agricoli a tempo, i braccianti, che sono quel proletariato agricolo che deve continuamente trasmigrare da azienda a azienda alla ricerca di qualche giornata di lavoro. Sono quella il vero tessuto sul quale va innervata la resistenza. E dunque le SAP. Le SAP sono formazioni partigiane fatte non già di partigiani a tempo pieno, cioè persone totalmente clandestine che vivono nascoste e poi escono ad agire, ma sono sia clandestini a tempo pieno, ma soprattutto persone che di giorno svolgono una vita normale o quasi normale e poi a tratti si riuniscono perfettamente consapevoli e organizzati nell'azione politico-militare. Ecco, questo è il punto. E le azioni delle SAP sono azioni che sono sempre contro l'occupazione tedesca, sono sempre contro i fascisti ma sono sempre radicate nel rapporto con le istanze popolari. E dunque sono le SAP che, per esempio, strutturano la lotta dei mezzadri per nuovi patti colonici. Sono le SAP che sostengono le agitazioni dei lavoratori della zona, le agitazioni delle mondine. Probabilmente il primo sciopero dell'Italia occupata non è la famosa serie delle agitazioni del marzo 1944, ma probabilmente è una vicenda di qualche mese prima che si svolge nella nostra pianura ad opera proprio di queste SAP, ma soprattutto ad opera di questo nesso virtuoso tra le formazioni partigiane e una conflittualità sociale che diviene consapevole e capace di manifestarsi. E poi il dopoguerra, un dopoguerra difficile tra istanze di rivendicazione ancora forti e la necessità di costruire una politica invece che si misuri con una realtà come quella del dopoguerra, nella quale da una parte si apre il grande conflitto della guerra fredda, ma dall'altra parte esiste pure una rivendicazione sociale da condurre, forte. E poi all'interno di questo grande conflitto, la grande repressione contro la sinistra, quello che un grande giudice costituzionale, perché oggi un giudice costituzionale, Guido Nepi Modena, ha chiamato processo alla resistenza, quella grande serie di procedimenti penali che in Italia vengono messi in atto con pretesti diversi, alcuni fondati, la maggior parte infondati, contro ex partigiani, militanti e dirigenti, politici e sindacali. E in questa macchina viene triturato anche il ruolo politico di Tolomelli, che si trova coinvolto in un brutto processo per fatti non solo che non ha commesso, ma che lui cercava di moderare e di condurre a una dimensione politica, e si trova tra coloro che espatriano in Cecoslovacchia. Il libro contiene una bella parte di descrizione di questa vita in Cecoslovacchia, di questo rapporto delicatissimo dei fuoriusciti con il Partito Comunista Italiano, il Partito Comunista della Repubblica che li ospita, ma che nello stesso tempo non può evidentemente far apparire in un contesto politico internazionale questo rapporto con comunisti, come si diceva allora, di oltre cortina. E l'esperienza della radio oggi in Italia, nella quale lavorano tanti fuoriusciti e di cui la cui responsabilità è assunta da Tolomelli. Un'esperienza che per Tolomelli si conclude quando rientra in Italia nel 64, ma che prosegue e che è tanto importante per un fatto restituitoci l'anno scorso, in occasione delle celebrazioni del quarantennale dell'invasione sovietica di Praga, quando una trasmissione, proprio il 28 agosto, della televisione ceca, raccontava di come proprio oggi in Italia, proprio i comunisti italiani fuoriusciti, dopo che l'invasione sovietica toglie gli strumenti di comunicazione a Dubček, bene, questa radio italiana offre a Dubček lo strumento per comunicare ancora 3 giorni, prima che poi arrivi anche lì il controllo sovietico. Ma questo è molto importante, testimonia di un percorso di questi comunisti italiani che comunque è dalla parte giusta, diciamo così, con una semplificazione rapida, ma che è questa. Tolomelli torna in Italia intanto e si rimette, prosegue a fare politica nel Partito Comunista di Bologna, poi diventa senatore, nella commissione difesa, si occupa del rapporto con l'esercito, si occupa del rapporto con i temi della pace. Ecco, un'esperienza di vita estremamente articolata e complessa che ho provato a tratteggiare in 2 parole, certamente insufficienti, ma restituita appunto attraverso un rapporto dialettico. Io trovo che la grande capacità di Ludovico Testa è stata quella di mettere in primo piano questo dialogo, sacrificando il proprio ruolo. Poteva dire: questo libro lo faccio tutto da solo e scrivere quello che gli pareva. Invece ha messo in primo piano questa dialettica, E da parte di Tolomelli una grande generosità, perché ha accettato di farsi, ha accettato di mettersi in gioco per una persona diversa da lui, più giovane. Lui avrebbe potuto benissimo trovare un biografo che ne tracciava un quadro a tutto tondo, ma come direbbe lui, non sarebbe servito a niente. Invece questo libro è problematico, ricco. Quindi insomma, chi non l'ha ancora letto, secondo me farebbe bene a leggerlo. Grazie.